Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici, molti si levano contro di me, molti dicono di me, non vi è salvezza per lui in Dio, ma tu eterno sei uno scudo intorno a me, colui che rialza il mio capo. Con la mia voce ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo. Io non temerò a miliardi di gente che si accampano contro di me, poiché in te io confido. Se un esercito si accampa contro me, non temerò. Se c'è una guerra oggi intorno a me, confiderò in te. Non temerò nessun nemico che si alzi contro me. E se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te. Seguir y alza el mio capo. Rialzati, Signore, e salva Napoli, l'Italia, il mondo. Oh, un applauso forte al Re. Oh, alleluia. Oh, che si senta. Che si senta. Là sopra, lì in mezzo, là in fondo.